Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il lunedì a quest'ora Radio 24 si parla di trasporti e logistica e oggi iniziamo a farlo con Claudio Fraconti, presidente provinciale di FAI Conftrasporto Milano Lodi e Monza Brianza. Fraconti è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, con lei poi facciamo il punto sulla fase 2, ma prima vorrei coinvolgerla su un altro tema, quello portato alla luce nei giorni scorsi dall'inchiesta della Procura di Lodi sugli autisti schiavizzati da alcuni imprenditori, 5 dei quali sono finiti in carcere, una storia che abbiamo raccontato anche nei nostri GR, autisti italiani e soprattutto stranieri costretti al volante anche 18 ore al giorno, mettendo così a rischio la loro incolumità eppure quella pubblica, lavoratori disposti a tutto pur di mantenere il posto, costretti pure a pagare, pensate, per poter dormire nella cabina dei tir. Lavoratori quindi sfruttati, sottopagati e aziende in grado di abbattere i costi e praticare così tariffe assolutamente fuori mercato. Fraconti. È così, e purtroppo noi lo sappiamo da alcuni anni che ci sono in giro queste situazioni, per cui noi abbiamo la concorrenza estera che fa dumping e abbiamo la concorrenza interna invece che fa mala gestione. Ci sono anche le truccature dei camion, le truccature addirittura dei sistemi di antinquinamento, che è una cosa vergognosa. Cioè, cosa fanno? Cosa succede? Succede che i camion di nuova generazione hanno dei serbatoi supplementari dove si aggiunge questo additivo che serve per l'abbattimento dei fumi. Esistono dei sistemi elettronici per eliminare questa funzione e quindi risparmiare nel rifornimento di questa urea che è obbligatoria per il funzionamento e per il mantenimento dell'Euro 6. Ecco, tornando alla questione in generale, come fa il Conftrasporto da tempo chiedete l'imposizione dei costi minimi come unico argine contro pratiche di sfruttamento e fenomeni truffaldini? Esattamente come ha rilevato il Tribunale di Milano nella questione Ceva. Si è chiesta come mai questi clienti che hanno dato la disdetta ai contratti Ceva, visto che adesso c'è un commissario che applica il contratto di lavoro, forse ci sono i committenti che non stanno pagando il giusto. E questo succede esattamente nell'autotrasporto, nello stesso identico sistema. E quindi dobbiamo incidere su quello. Non c'è più storia. Oltretutto che noi trasportatori italiani abbiamo dimostrato di esserci durante l'emergenza. Ecco, appunto, emergenza sanitaria fase 2 vista dall'autotrasporto tra Milano, Lodi e la Brianza. Fraconti, come stanno andando le cose? Diciamo che la ripresa, secondo me, siamo sull'85%. C'è questa disposizione della Regione Lombardia di misurare la febbre in tutte le aziende. Siamo intervenuti come FAI regionale presso la regione per dire, insomma, signori, gli autisti alla mattina partono a tutte le ore e tornano a tutte le ore, come facciamo noi a misurare la febbre? È stata fatta un'ordinanza successiva che però ci lascia abbastanza perplessi, in quanto dice l'autista si deve misurare la febbre alla mattina a casa sua e comunicare anche via WhatsApp che è tutto a posto. Io non lo so se questo si sposa poi molto bene con un'altra disposizione capestro, che è stata quella di mettere l'emergenza Covid e quindi il rischio di infezione a carico dell'INAIL invece che della malattia, perché malgrado ci sia stata poi una circolare dell'INAIL che ha detto praticamente non viene coinvolto il datore di lavoro, sappiamo benissimo che purtroppo ci sono sempre chi ci prova a fare causa ai datori di lavoro e poi i costi comunque li dobbiamo sopportare, solo per dimostrare che il dipendente non si è infettato sul posto di lavoro piuttosto che a casa sua. Claudio Fraconti, presidente provinciale di FAI Conftrasporto Milano Lodi e Monza Brianza, grazie e buona giornata. Grazie a voi e auguri a tutti. Lunedì scorso con il sottosegretario Margiotta avevamo fatto il punto sulle misure a sostegno della logistica e dell'autotrasporto contenute nel decreto rilancio. Queste misure saranno al centro dell'incontro convocato per dopodomani in videoconferenza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale parteciperanno i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il mercato dei veicoli commerciali affonda. Ad aprile le immatricolazioni segnano meno 90% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo le stime di Unrae, nel primo quadrimestre 2020 il crollo delle vendite è stato del 44%. La scorsa settimana, con modalità di e-learning, sono ripartiti i corsi di formazione per gli autotrasportatori organizzati dall'Albo Nazionale. Ne parliamo con la vicepresidente Francesca Ielli. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Ricapitoliamo il senso di questa iniziativa, Ielli. Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo messo in campo molto importante, perché abbiamo investito un po' di soldi della categoria e ha avuto anche un buon esito, perché nel momento appunto dell'iscrizione ben 1900 autisti tramite le loro imprese hanno potuto fare l'iscrizione. Comunque i termini sono aperti anche per altri conducenti. La cosa importante è che appunto abbiamo deciso di partire con la parte teorica in questo momento, proprio in cui comunque la categoria è molto impegnata, quindi essendo una preparazione in e-learning è molto utile e la possono seguire in ogni momento. Questa parte teorica si divide, diciamo, in due fasi. La prima fase appunto consiste nella somministrazione di due moduli, uno un modulo di ecoguida che riguarda appunto la guida ecosostenibile e un altro invece sulla sicurezza. Ognuno di questi è ripartito in 12 unità didattiche e riprendono proprio i temi che sono affrontati anche nel rinnovo della carta di qualificazione del conducente. Ecco, come diceva, le iscrizioni a questi corsi restano aperte. Cosa bisogna fare per partecipare? Bisogna andare sul sito anche albo.autotrasporto@mit.gov.it, c'è un banner e vengono direttamente indirizzati nel link dove è possibile effettuare l'iscrizione. Francesca Ielli, vicepresidente dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a tutti. In questi mesi la vita del paese e delle famiglie è dipesa dall'approvvigionamento dei beni essenziali, che è stato garantito dall'efficienza dei processi logistici delle varie filiere. GS1 Italy ed ECR Italia, associazioni che rappresentano le principali aziende di industria e distribuzione, hanno monitorato la supply chain per il largo consumo e lo hanno fatto in collaborazione con il Politecnico di Milano. Giuseppe Lucia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come si è svolta questa indagine? Allora, sostanzialmente è una survey fatta sui responsabili di logistica di oltre circa 100 rispondenti, cioè 100 aziende che hanno risposto a questo questionario, per cercare di individuare quali sono stati gli impatti di questa crisi, in particolare sulla filiera logistica del settore largo consumo. E allora ci dia qualche anticipazione. Emerge che i trasporti hanno tenuto, ecco, forse anche per effetto della possibilità di compensare risorse di trasporto prelevandole da filiere che erano completamente ferme, soprattutto nella prima fase, e anche grazie al fatto che strade e autostrade erano piuttosto sgombre e quindi i tempi di trasporto si sono ridotti. Qualche difficoltà in più sono emerse di fatto su due aspetti. Uno sono le operazioni di magazzino, dove le regole del distanziamento fisico hanno imposto di cambiare alcuni processi, e poi l'altro elemento, diciamo, dirompente è stata una dinamica della domanda che per alcuni prodotti è stata assolutamente imprevedibile e quindi ha messo in crisi la catena di fornitura. Il prodotto sostanzialmente non è che non viaggiasse, ma proprio non c'era. Dal punto di vista del produttore, alcune difficoltà nel sourcing dei prodotti, soprattutto per quando questi arrivano dall'estero, soprattutto da catene molto lunghe, quindi diciamo fornitori lontani, che hanno costretto qualche volta a trovare soluzioni alternative. È emerso qualche altro elemento? L'altro elemento interessante è che ci sono delle dinamiche. C'erano già delle dinamiche, delle priorità per le aziende in termini di crescita, di sviluppo e di innovazione, che erano già presenti nelle aziende di questo settore. Alcune di queste hanno ricevuto un boost, un'accelerazione importante da quello che è successo in questi mesi, dalle lezioni che abbiamo preso in questi mesi. In particolare penso alla spinta all'automazione del magazzino, alla digitalizzazione di alcuni processi, penso per esempio alla digitalizzazione della proof of delivery, e anche una spinta a guardare alla collaborazione, allo scambio di informazioni fra produttore e distributore. Ecco, mi pare di capire, nel complesso, per quanto riguarda i prodotti di largo consumo, gli attori logistici hanno dato una buona prova di efficienza, direi. Grande dimostrazione di efficienza, grande disponibilità, grande flessibilità, e tutti i manager con cui abbiamo parlato hanno messo in evidenza, ecco, questa capacità, anche la possibilità, ovviamente, per chi è attivo su più filiere, si è trovato con delle filiere completamente scariche, ferme, che non chiedevano trasporto, e quindi li ha potute in qualche modo dedicare. Però per fare questo ci vuole flessibilità, ci vuole ascolto e confronto con i clienti, ed è, diciamo, stata una reazione sicuramente buona. Giuseppe Luscia, grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, buona giornata. Un paio di notizie in breve: anche domenica prossima e martedì 2 giugno sulle strade extraurbane sono sospesi i divieti festivi di transito per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate. Con il decreto rilancio è eliminato l'obbligo di denuncia fiscale da parte dei possessori dei piccoli serbatoi di gasolio, le cosiddette cisternette. Dal 1 gennaio 2021 basterà una semplice comunicazione di attività all'ufficio delle dogane competente per territorio. Termina qui oggi hashtag autotrasporti, vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda alle 13:15 con Container, un approfondimento su questi temi. Con questo programma ci risentiamo come sempre lunedì alle 13:45. Ora gli aggiornamenti delle 14. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Una buona giornata. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.